www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Niente, ieri facendo benzina mi sono dimenticata la pompa. Attaccata. Già. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. Later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce. Mentre nella fabbrica di polli le sbarre alle finestre sono ricoperte di muffa verdastra, Cappa e Drago distruggono le aspirazioni del pollo in sbattimento. Da oggi comincio a prendere lezioni di canto, Pollastri, Ma è una voce impossibile, Pollo. Che lezioni vuoi prendere? Trapianto. Ma no, dai, ragione Cappa, Pollo. Non è nemmeno una voce. È sembra il preset di una pedaliera di effetti. Non possiamo offendere, Perché? No, perché io già canto benino per conto mio. E adesso devo solo perfezionarmi. Ah sì, giusto una perfezionatina. Ma sì, ma è solo per la consapevolezza, Consapevolezza cosa? Ma sì, cioè con le lezioni io divento consapevole di quello che faccio con la voce, no? Tutto anni 70. Le mie potenzialità con la voce. Certo. Perché se io canto Rebel, per esempio, Rebel. Io non è che so cosa canto, E quindi non so neanche come cantarla, no? Tipo? Rebel, feel the night. Sì. Infatti il testo non è che si capisca bene, no, il testo no, non è chiaro. Infatti, insomma, potresti fare sì il cantante glam, perché con quella voce così un po' tutta gracchiante potrebbe funzionare. È vero. Ma se vuoi cantare, non so, alla Frank Sinatra, non so che cosa ne uscirebbe. Infatti voglio prendere una lezione di canto, no? Per diventare come Frank Sinatra. Certo. Ma no, per aumentare la mia consapevolezza, no? Sì. Cioè le basse, Tipo? Tipo... Vabbè. Hai capito? Sì, è chiaro, no? È un disastro, Pollo. Ma non senti che hai una voce cacofonica? Sì. Perché? Al telefono ti scambiano per una signora operata alle corde vocali, Pollo. Come puoi pensare di cantare? Io devo solo migliorare la consapevolezza. No, guarda, no, devi proprio farti togliere qualche centinaio di polipi dalle corde vocali, perché sennò... Beh, guarda che io per essere un Pollo ho una voce bellissima, Sì. Ma voi tre che l'avete sentito? E lui che voce ha? Scusate. Cosore mio, La colpa te. Oh, sole mio. Beh, c'è molta differenza, Ma come no? No, guarda, potreste fare tranquillamente un duo. Sì, un duo comico, comici involontari, sareste perfetti. Ah, molto divertente questa, Bella. Ma sta zitto tu, pirla. Marico, mano, Gianna, trucca a me. Fammi le zinne della Hunzinge. Fammi la bocca della Basinge. Fammi il ciuffetto come Ratzinge. Che devo andare a parlare, a ballare, a frignare, a litigare, a sgallettare. Dentro al pollaio de Marie. Me vedi mamma, sono qui. Dentro al pollaio de Marie. Oh, vedi, Drago, l'illusione è sufficiente. Ora siamo al mare. Mi spalmi la crema? La crema? Ma sì. Nemmeno morto, spalmatela da solo. Ma come spalmatela da solo, Drago? Sulla schiena non ci arrivo. Sì che ci arrivi, dai, con un po' di sforzo ce la fai. No, è impossibile spalmarsi la crema da soli. Sì, La crema da sole da soli non si può spalmare, Drago. C'è perfino chi ha vinto un premio in Nobel per aver sintetizzato in una formula l'impossibilità dell'essere umano a spalmarsi uniformemente la crema da sole da solo. Questo era sicuramente uno che ha fatto la scuola svizzera. Ma no, Drago, la lunghezza del tendine del braccio non permette di raggiungere certi punti della schiena sensibilissimi ai raggi del sole. Tutto qui, non ci vuole per forza la mente geniale di uno svizzero. Il rapporto tra superficie esposta e lunghezza della leva non soddisfa i parametri di esposizione. Ma chi se ne frega se non te la spalmi uniformemente? L'importante è che la maggior parte del corpo sia protetta. Ma tu non sai niente, così le poche zone in cui non c'è la crema si scottano. Ma no, ma stai tranquillo, guarda che i raggi del sole vengono rimbalzati dall'ammasso generico di crema che tu hai spalmato più o meno dappertutto. Non ti faranno niente perché vedono la crema e tornano indietro. Non capito? È vero, quando si lasciano degli spazi senza crema, quegli spazi si scottano, diventano tutti rossi mentre il resto rimane bianco, anche a strisce, fai schifo. Non ci arrivo, vedi? Poi fanno un male cane le scottature. I raggi del sole sono come i raggi laser. Dove colgono, colgono. Lo diceva sempre anche il premio Nobel. Vabbè, allora facciamo che tu te la metti come puoi e io finisco il lavoro tappando i buchi, ok? Così anche il premio Nobel è contento. Allora tanto vale che me la spalmi tutta. Ma sì. Scusa, se il tuo pudore è farti vedere mentre mi spalmi la crema perché sono un uomo, allora non dovresti nemmeno tappare i buchi, come dici tu, che poi è detta così. No, vabbè, ma tanto ci stanno già guardando tutti perché tu parli sempre forte. Passami il tubetto che faccio da solo, dai. Ma quale tubetto? La crema. Ma non dovevi portarla tu, la crema? Ma io? Ma certo. Ma tu non l'hai portata? Ma io non la metto mai la crema, sei sempre tu che hai la crema. Ma adesso cosa faccio? Cosa diceva il premio Nobel di quando si dimentica la crema? Di tenere sulla maglietta e di stare un po' all'ombra. Vabbè, allora ha fatto bene a dargli il premio. Sì, solo che qui non c'è ombra, quindi... Ipotesi che il premio Nobel non contemplava. Ma però contemplava l'ipotesi che quando si dimentica la crema può sempre mettersi a piovere. Meno male. Questo è molto divertente. La fabbrica di polli. Do, forza pollo. Do. No, sei calante, forza, di nuovo. Do. Do. No, non ce la fai, non ce la fai. Come no? No, non ce la fai, pollo. Qui, guarda che mi sei offerto tu di darmi lezioni di canto, capa. E allora? No, se non sei capace me lo dici subito, ma che devo fare. Il problema è che sei tu che non sei capace, non io, pollo. Io più che darti la notte non posso fare. Va bene, scusa. Dai. Do. Ma no, vedi, sei sempre o calante o crescente, ma è un disastro. Crescente. Ma che lezione è? Do, non si capisce niente. Ma non serve a niente, no? E allora, come dobbiamo fare? Pavarotti ha cominciato facendo nota per nota. Ma questo qui a 8 anni cantava già Oh sole mio. A 8 anni, vabbè, allora cominciamo dalla fine. Facciamo come vuoi tu, pollo. Allora, prova a cantare Oh sole mio facendo l'acuto finale, già che ci sei, così facciamo prima. Dai. No, ecco. Perché questo è quello che intendo io per lezione di canto. Bravo, allora. L'acuto finale di Oh sole mio. Bravo, però bisogna farlo. Allora. Dai. Oh sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. No, non ci siamo, non devi dire sta in fronte, qui devi dire sta in fronte. Cosa devo dire? Sta in fronte, capito? No, perché che sei dice... fronte, no? Ma non ti preoccupare, è quello che dice Pavarotti, senti. Poi la sentito? Dice proprio Steiner Frö. Steiner Frö. Ma cos'è? È un terzino dello Schalke 04. Ma che Schalke 04? Basta pensare al calcio, per favore, qui siamo nel tempio della musica. Allora, Steiner Frö, pronto? 1, 2, 3. Cosa succederà adesso? Pavarotti e il pollo in sbattimento appariranno in coppia nel prossimo disco degli U2, in quello di Bocelli e in quello di Sting? Non mancate domani alla stessa ora su Radio 3 al prossimo melodrammatico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La Fabbrica di Polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La Fabbrica di Polli è trai.it, barlumen.com.